Giada lucente si alzò in piedi e si stiracchiò, la schiena dolorante. Con la coda dell'occhio vide che la vecchia Maha era tornata indietro senza farsi vedere e si nascondeva dietro una colonna. Andò verso di lei e la prese per mano, facendola sedere accanto alla sedia di palissandro. Ci fu un mormorio, ma nessuno obiettò. Ogni sua visita, della durata di una settimana, era sua abitudine raccontare alle donne una storia al termine della prima lezione, e non solo perché, dopo la marcia, era quasi sempre troppo stanca per sostenere una discussione politica che inevitabilmente scaldava gli animi. Le donne preferivano i suoi racconti a qualsiasi altra cosa, e così quello era il modo migliore di iniziare la settimana. Battendo le mani, annunciò che oggi avrebbe parlato dell'incendio alla grande fabbrica di seta, in seguito al quale il giovane Huang organizzò le tessitrici. Le donne applaudirono e le si raccolsero intorno mentre lei sedeva di nuovo. Osservando i loro volti, sorrise fra sé. Le parabole che raccontava lei erano così diverse da quelle di sua madre, eppure la magia era la stessa. Mentre aspettava che il gruppo si sistemasse, un bambino piccolo riuscì a farsi strada, mettendosi davanti a tutti. Pensò a un nuovo destino, seduto ai piedi di luna di primavera ad ascoltare storie. Avrebbe avuto 5 anni fra poche settimane e non la conosceva. E nemmeno lei riusciva a vederlo con gli occhi della memoria. Soltanto una sagoma alta così, senza un volto particolare. Sembrò quasi di sentire la voce di 20 d'agosto che la rimproverava. Persino quella tua insegnante missionaria si teneva vicino le foto della sua famiglia, se non altro per darvi un'occhiata di tanto in tanto, ma tu... Si riprese. Le donne l'aspettavano. Accarezzando la testa del bambino, che ridendo la ritirò come fa una tartaruga, cominciò. Un giorno, mentre le donne della fabbrica della seta celeste ultimavano la 12ª ora di lavoro, e i loro figli pure, il grasso proprietario, accendendo la sua pipa da oppio, buttò incautamente per terra il fiammifero. Le parole non cambiavano mai. E nemmeno le risposte delle donne, le urla, i gemiti d'orrore mentre le lavoratrici ardevano fra le fiamme. Le urla di collera verso il capitalista che aveva chiuso a chiave la porta della fabbrica per evitare che le operaie se ne andassero qualche minuto prima. Gli applausi ferventi quando il figlio sopravvissuto di una delle bruciate vive si ripromise di farla pagare ai padroni. Pagare per le 100 vite perdute. Pagare per le 100 cisterne di lacrime versate. Poi, a un suo gesto, furono in piedi, urlando tutte insieme: tutto il potere alle masse, tutto il potere ai lavoratori, tutto il potere ai contadini. La riunione era terminata. Mancando soltanto un'ora o due al tramonto, le donne si affrettarono verso il villaggio a gruppetti di 2 o 3, le bocche ben chiuse contro il freddo. Toccava a sorella Hong ospitare il quadro. Nella minuscola casa di mattoni di terra, Giada Lucente fu presentata al resto della famiglia. Prima al padre e al fratello, poi alla madre e alla nonna, che si erano date da fare tutto il giorno in attesa di quella visita. La guardavano senza dissimulare il loro stupore, mentre si toglieva le pelli di capra dalla testa, dalle spalle, dai piedi e si lavava nel secchio di acqua che le avevano portato dal vicino ruscello. Era alta quanto gli uomini. I suoi capelli, tagliati appena sotto le guance, erano passati dietro le orecchie. Quando ebbe finito, le offrirono una tazza di acqua calda perché non c'era tè. La sorella chiese scusa e andò a preparare il pasto, lasciando gli altri seduti sul kang a osservare la straniera che beveva a piccoli sorsi. Se soltanto potessimo offrirti qualche dolce o seme di melone, disse il vecchio, se soltanto avessi potuto portarvene io un po'. Presto potremmo sfamarci, presto, quando tutto lo Hunan sarà libero, quando tutta la Cina sarà libera, lo corresse lei. Loro annuirono solennemente. Il suo stomaco brontolava per la fame. Vuotò la tazza e immediatamente le offrirono dell'altra acqua. Lei rifiutò, profondendosi in ringraziamenti, poi ripiombò quel silenzio carico di imbarazzo. Improvvisamente la madre declamò: Sì, prima che si formasse l'associazione dei contadini eravamo oppressi, non eravamo che schiavi del padrone delle terre. Noi lavoravamo i suoi campi e lui si prendeva la maggior parte del grano. Quando le nostre scorte erano finite, ci vendeva a prezzi altissimi qualche ching da mangiare quando non avevamo più denaro. Ci prestava un cash o due a interessi da usuraio. Prima ci rapinava e poi ci faceva pagare il prezzo per quell'onore. Intervenne il fratello. Se non fossi un figlio unico, sarei un soldato rivoluzionario della lunga marcia verso il nord. Conosceva queste frasi a memoria, avendole udite tanto spesso, le stesse parole, in tutti i villaggi che visitava. Questa sera era troppo affamata per dare la risposta appropriata e si limitava ad annuire mentre, uno dopo l'altro, ciascun membro della famiglia raccontava con fervore le sofferenze che aveva subito a causa del padrone, facendo a gara nel descrivere l'episodio più colorito, esagerando e rivivendo il passato finché furono tutti presi di nuovo dalla collera e finalmente il pasto fu servito. Ci vollero solo pochi minuti per inghiottire la brodaglia acquosa e le rape salate. Poi, quando calò il sole, andarono a dormire. Non c'erano lampade. Le prime volte che Giada Lucente pernottava nelle case dei contadini, i suoni e gli odori di persone e polli ammucchiati in una sola stanza la infastidivano al punto che, per quanto stanca fosse, spesso restava sveglia fino all'alba. Ora sprofondò in un sonno senza sogni. Non sentì sorella Hong che russava accanto a lei, il piccolo che piagnucolava, il vecchio zio che gridava nel sonno. La sorella doveva averla tirata parecchio per la manica prima che si svegliasse. «Ti prego, maestra, ti prego, svegliati!» Devi aiutarmi. Che cosa? È già mattino? No, ma devi ascoltarmi e aiutarmi. Si protese verso di lei. La ragazza tremava. Qual è il problema? Lui darà retta a te. Tu sei una persona importante, un quadro. Tu non sei di Boschi Beati. Tu potresti convincerlo. Di chi parli? Di mio marito. Lui ti darà retta. Digli di riprendermi con sé. Sorella Hong singhiozzava nell'altra punta, non sapendo che fare. Giada Lucente le diede un colpetto incoraggiante sulla spalla, cercando di calmarla. Andrà tutto bene, vedrai, andrà tutto bene. Dopo un po' la ragazza proseguì. Sono stata una sciocca. Ho mangiato tutto quel che c'era mentre lui era nei campi, e poi sono andata di nascosto nella casa di mio padre e ne ho chiesto dell'altro. Che cosa ne sapevo io dei sentimenti di un uomo? Lui ha perso la pazienza, ha un brutto carattere, mi ha picchiata. Ma io ho un carattere peggiore del suo e ho chiesto subito il divorzio, poiché l'associazione dei contadini aveva detto che siamo tutti liberi. E riprese a singhiozzare, incapace di parlare. Giada Lucente aspettava, sapendo benissimo come si sarebbe conclusa la storia. Per l'ennesima volta il quadro avrebbe dovuto compiere il ruolo degli antichi intermediari. Alla fine la sorella Hong proseguì: Ma quando sono tornata qui a casa mia, nessuno mi ha dato il benvenuto. Hanno detto che questo non era più il mio posto, che ero soltanto un'altra bocca da sfamare. Ed è vero, finché non me ne vado, mio fratello non può sposarsi. Cosa mangerebbe sua moglie? E senza una moglie non potrà avere un figlio né un nipote, capisci? Capisci? Tu devi dire a mio marito di riprendermi. Giada Lucente teneva fra le braccia la donna, cullandola, sussurrando: Te lo prometto, domani, te lo prometto. Sorella Hong smise via via di tremare. Davvero? Sì, te lo prometto, ripeté Giada Lucente, domani. Ma il mattino dopo arrivò un corriere per richiamare il quadro al suo quartier generale. Si affrettò a raccogliere le sue cose. Doveva trattarsi di una questione urgente. Prima di partire andò a cercare sorella Hong, che stava facendo il bucato al fiume. Tornerò, sorella, presto, e allora parlerò con lui, come ti ho promesso. La contadina, battendo la camicia del fratello contro una pietra, non alzò gli occhi. Il viaggio di ritorno richiese diverse ore, e quando arrivò al quartier generale, il Lao Kia dell'ex proprietario delle terre era già a pomeriggio inoltrato. Attraversò in fretta le due porte a forma di luna e diversi cortili di acciottolato, arrivando infine nella stanza dove la guardia le aveva detto di aspettare. Era arredata sommariamente, con due sgabelli e un tavolo traballante su cui un orologio ticchettava pigramente. Molto tempo prima, quella doveva essere stata una cucina, le mura erano nere di fuliggine. Era lì da 10 minuti quando la porta si aprì ed entrò un uomo basso che lei non conosceva. Lei scattò in piedi. Buongiorno, compagno. Lui le fece cenno di rimettersi a sedere e si mise a sedere sullo sgabello dietro il tavolo. Preso in mano l'orologio, lo caricò in silenzio. Lei capì subito che doveva essere un tipo importante, uno di quelli che pretendono la disciplina sopra ogni altra cosa. Non aveva nessuna fretta di parlare. Lei si sforzò di restare impassibile, ma alla fine non seppe più trattenersi. È per via di mio marito, gli è successo qualcosa? L'uomo non rispose. Deliberatamente si fece schioccare ogni dito e alla fine scosse lentamente la testa. Grazie a Dio. Ah, sollevata per poco non sorrise, stupita per la propria reazione. Le vecchie parole. Che cosa avrebbe pensato di lei quell'uomo se le avesse dette a voce alta? Man mano che i minuti passavano, l'irritazione ritornava. Meschino burocrate! Sei sempre così, così agitata, compagna? Lui si alzò e si diresse verso la piccola finestra. Il partito ha deciso che tu e Spirito Risoluto dobbiate partire immediatamente e presentarvi al compagno Chu a Shanghai. Egli progetta un altro sciopero per rafforzare le nostre file in modo da evitare il Kuomintang usurpi la nostra posizione quando arriverà l'esercito rivoluzionario. Credevo che lo sciopero fosse già stato dichiarato alcune settimane dopo il Capodanno. È fallito. I signori della guerra e la polizia straniera hanno ucciso centinaia di lavoratori, costringendo la gente a tornare al lavoro. Dobbiamo provare di nuovo. Spirito Risoluto e io partiremo questa notte. No, subito! Partirete subito, tutto è pronto. Tuo marito conosce la strada e ti aspetta alle scuderie. Si voltò, le tese la mano e per la prima volta sorrise. Buona fortuna, compagna. 4 giorni dopo, già da lucente Spirito Risoluto raggiunsero il fiume Yangtze, che dividendo il nord dal sud collega l'est all'ovest, e intrapresero un viaggio di 7 giorni, discendendo il fiume fino a Shanghai. Era un'imbarcazione a fondo piatto, con arcacce fatte con una sola asse che sporgevano sopra l'acqua, una vela, due remi e un tetto di paglia che costituiva il riparo principale. Spirito Risoluto poteva percorrere la lunghezza con 6 passi, già da lucente la larghezza con 4. Intorno a loro galleggiavano imbarcazioni, così numerose e varie come le foglie d'autunno in una foresta, navi da carico, rimorchiatori, maone, chiatte, cannoniere, barche di pompieri, barche di barbieri, barche di venditori ambulanti, barche per il fieno, barche dei fiori. Case galleggianti, zeppe di lebbrosi cui non era mai consentito sbarcare e canne di bambù legate insieme, provenienti dalle montagne, destinate ai cantieri cittadini. Scafi grigi d'acciaio lasciavano dietro di sé scie di fumo di carbone e portavano la bandiera a stelle e strisce, quella del sole nascente, la Union Jack. Di tanto in tanto una barchetta di carta lanciata per propiziarsi gli dèi. Il loro primo giorno sul fiume, Spirito Risoluto ne raccolse una in pericolo e la rimise al sicuro sulla sua strada. Per la prima volta da quando erano sposati, era lui che sapeva meglio cosa fare e come farlo. Le insegnò a governare la barca e a pescare e il modo migliore per allargare la tela cerata e fissarla per proteggersi dalla pioggia. Imparò che nelle vicinanze di sponde ripide l'acqua è profonda, che il pericolo è in agguato vicino agli scogli, che un vortice d'acqua nasconde una roccia e che macchie d'olio spesso annunciano un banco di sabbia. Quando cadde la pioggia sottile, lei fu ammaliata dalle apparizioni spettrali che aleggiavano nella bruma e quando un sole appannato dai vapori li abbagliò, lui immerse il cappello di paglia nel fiume e urlò di piacere mentre l'acqua gli gocciolava sulla faccia. Se ne stava accoccolato per ore, immobile, a osservare la spiaggia. Spesso rideva e allora lei sapeva che pensava a suo figlio e che presto l'avrebbe rivisto. Nuovo destino sa leggere ora, non credi, moglie mia? Diceva. Avrà delle guance paffute che faranno venir voglia di dargli pizzicotti, scommetto. Oppure, nuovo destino avrà la pelle liscia e bianca come la tua, ne sono certo. La notte, quando ormeggiavano la barca nelle paludi, Le zanzare la tormentavano, ma lui riusciva a ignorarle, tutto occupato a preparare un fischietto con una delle canne che proliferavano lungo il fiume. Per Giada lucente, dopo le notti insonni, i giorni erano lunghi, troppo, troppo lunghi. La beatitudine dello spirito risoluto la irritava. Il suo tentativo di nasconderla, come altri uomini nascondevano la loro infatuazione per una concubina, la infastidiva ancora di più. Lo sorprendeva mentre sorrideva alla vista di una vela tesa o di uno stormo d'anatre quando credeva che lei non lo osservasse. Lo sentiva sospirare di piacere mentre fumava la pipa alla luce della luna quando credeva che lei dormisse. Giada lucente pensava soltanto ai compiti che li aspettavano e alla fine del viaggio. Lui ci pensava? Se gli capitava non ne parlava mai, benché quando lei accennava al partito e al loro lavoro facesse tutti i commenti appropriati. Ah, che cosa può esserci di tanto penoso, insopportabile? Sembrava chiedere. Se il sole sorge ogni giorno e possiamo sfamarci. E stiamo andando da nostro figlio, e il fiume scorre verso il mare, come ha sempre fatto. Lei si domandava talvolta se lui fosse diverso dal Culi che sbava alla promessa di qualche cash e vuole ignorare a tutti i costi che gli toccherà morire giovane. Eppure fra le montagne non c'era nessuno più coraggioso, più fidato di lui. Il quarto mattino, dopo una notte irrequieta in cui era stata svegliata più volte dai singhiozzi di sorella Hong, gli rimproverò di aver russato svegliandola. Ma se non ho, non mi sono nemmeno addormentato, moglie mia. Non è vero, hai russato come un branco di maiali. Può darsi che ci sia stato un branco di maiali sulla spiaggia, ma io ero sveglio. Questa zona è piena di banditi, non mi sono fidato a dormire. Poi, quasi come se avesse indovinato i suoi pensieri, disse: Sono le zanzare, tu non ci sei abituata. Domani comprerò dell'incenso da una barca di mercanti per tenerle lontane. Non sono le zanzare! Era sul punto di piangere per il dispetto. Ripetilo ancora e ti darò un calcio! Lui annuì, sorridendo: Fa pure, dammi un calcio se ti può far stare meglio, non me la prenderò. Ora era lei a leggere i suoi pensieri. Moglie mia, tu sei la nipote di un Hanlin e abituata a un'altra vita. Io sono un contadino e posso accontentarmi di nulla. Allora, Giada lucente diede un gran calcio alla barca, facendosi male a un piede e mentre gli passava accanto, zoppicando, inciampò nella zanzariera. Più tardi, lui prese un ago e del filo e ricucì il buco. 37. Due divisi. Entro il mese dell'equinozio di primavera dell'anno del coniglio 1927, l'esercito rivoluzionario di Chiang Kai-shek aveva cacciato i soldati dei signori della guerra da Shanghai e occupato la città cinese, mentre truppe straniere presidiavano le concessioni. Ora tutte le province della Cina a sud dello Yangtze erano sotto il controllo del Kuomintang. E si sparsero voci sull'imminente tradimento delle fazioni di sinistra nei confronti di quelle di destra, oppure del contrario, secondo la fede politica di chi le propagava. A Shanghai il compagno Chuen Lai mise in allarme i suoi uomini, immagazzinando armi per un eventuale uso contro Chiang. Ma diversamente dall'idealista Sun, che si era fidato di Yuan Shikai, perdendo così il controllo sulla rivoluzione del 1911, Chiang non aveva alcuna intenzione di lasciarsi strappare la vittoria dai rivali. Anticipando una possibile insurrezione comunista, ordinò l'arresto e l'esecuzione di funzionari del Partito Comunista Cinese, di coloro che avevano guidato gli scioperi e di tutti coloro di cui si conosceva o si sospettava l'appartenenza alla sinistra oltranzista. Il 12 aprile squadre di uomini armati si sparpagliarono per la città. Durante il terrore bianco furono massacrati uomini a centinaia. Vecchi nemici di nuovi nemici diventarono amici. Truppe straniere, soldati disertori dei signori della guerra e elementi della malavita di Shanghai si unirono alla caccia dei leader comunisti che si erano messi in salvo. Storia cinese. L'ottavo giorno della quindicina della pura luminosità, il patriarca della casa dei Chang camminava in gran fretta lungo un vicolo nel settore cinese di Shanghai. Era l'alba. Le Le strade erano scure, silenziose, lo studioso non rallentava mai il passo, anche quando, sollevandosi la sottana, avanzava in mezzo alle pozzanghere lasciate dalla pioggia del giorno prima. Un cane guaiò ai suoi piedi. Lo sparo venne dal nulla. Non ci fu dolore, solo stupore. Talento coraggioso si vide cadere, vide il suo corpo afflosciarsi sull'acciottolato dello stretto vicolo. In lontananza gli spari continuavano, ma il suono prodotto dalle pallottole contro i mattoni delle case si fece più fievole, come il click di tessere di Mahjong. Pung, draghi, pung, bambù, nord, sud, un'ultima partita. Che cosa sto facendo qui? Si domandò. Oh sì, era venuto per giocare con sua madre. Nel padiglione delle donne, la matriarca aveva inarcato un sopracciglio. Figlio, sei troppo vecchio per giocare ancora qui. Col cuore spezzato, era tornato nel dormitorio, nella lunga stanza piena di echi, dove avrebbe dormito d'ora in poi senza di lei, fra i cugini. Lei gli aveva mandato un pacco dei suoi dolci preferiti, avvolti in una sciarpa di seta per consolarlo. Luna di primavera, sei tu! Virtù splendente. Non piangere. No, sono contento, sono fiero di te, la mia moglie moderna coi piedi grossi. Luna di primavera sei tu. Oggi impareremo a contare. Quando portavo un berretto di tigre e scarpe con le nappe, il venerabile mi insegnò così. Ascolta bene. Uno, il cosmo. Diviso diventa uno, due, yin yang. I contrari che formano un intero. Uno, due, tre, quattro, cinque, le stagioni. Primavera, estate, metà anno, autunno, inverno. 1, 2, 3, 4, 5, le direzioni. Est, sud, centro, ovest, nord. 1, 2, 3, 4, 5, gli elementi. La terra che dà alla luce il legno, che è tagliato dal metallo, che si fonde col fuoco, che è spento dall'acqua, che è arginata dalla terra. Di nuovo quel suono. Che cos'è? Non il Mahjong. Più forte ora. Pung, pung, fucili che sparano. Una battaglia, una guerra. Non sono stranieri questa volta, ma cinesi, cinesi contro cinesi, una famiglia contro l'altra, rivoluzionari contro rivoluzionari. Devo avvertire già da lucente, devo avvertire, talento nobile, devo andare a Shanghai subito. No, non devo cadere. Cado! Promessa costante, guarda. Un tiao orizzontale, un breve pie, un cu arrotondato. Così si dipinge il tratto della cicala. La calligrafia di un uomo è il ritratto del suo carattere, l'opera di una vita. È proprio come te, luna di primavera, hai il tuo dono della gioia. È fatta, talento nobile. Il manciù penzola dalla corda di seta. È così facile far cadere una dinastia, dopo tutto. Talento coraggioso? Sì, padre, talento coraggioso, non lasciarti affascinare troppo dal gioco, ricorda. Ricordare cosa? Uno, il cosmo. Diviso. Era il crepuscolo quando la macchina di Talento Nobile entrò a Shanghai, per la prima volta in un anno, attraversando rapidamente i sobborghi cinesi dove i cadaveri erano ancora sparsi sul terreno delle esecuzioni. Carri con cataste di cadaveri avanzavano faticosamente nei vicoli. Ripetutamente risuonava un rumore non diverso da quello dei petardi. Il soldato, ora generale, guardava dritto davanti a sé, fissando la nuca del suo autista, ignorando quel che non voleva vedere, desiderando ritrovarsi nella pace di una casa non sfiorata da battaglie che non erano battaglie ma tradimenti. La macchina avanzò senza incidenti attraverso il filo spinato che isolava tutte le concessioni, dove nelle strade transitavano soltanto carri armati e soldati. Quando arrivò al numero 42 della Rue Flaubert, era buio. Senza nemmeno aspettare che il veicolo si fermasse del tutto, aprì la portiera, fermandosi solo il tempo necessario per ordinare all'autista di tornare in caserma. Forse potrei restare a dormire e dormire in macchina. No, non è necessario, va, riposati. Il soldato lo salutò. Grazie, signore. Talento talento nobile, fermo sulla strada, rimase a osservare la macchina che si allontanava, domandandosi che cosa pensasse quel ragazzo di quel tipo di guerra e se avesse un fratello nel movimento clandestino degli studenti. Soltanto quando la macchina ebbe svoltato l'angolo, sboccando sulla Nanking Road, si avvicinò agli alberi di gelso, scintillanti nella luna davanti all'ingresso della casa. Quando raggiunse la porta, improvvisamente fu assalito dall'impazienza e continuò a bussare finché la luce nell'atrio si accese e sentì dei passi. La porta si socchiuse, poi si aprì. 20 d'agosto! L'uomo era cinereo e aveva gli occhi segnati. Tu? Sussurrò con voce rauca. Avevo sperato. 20 d'agosto si interruppe e lo fece entrare rapidamente guidandolo nella biblioteca. Sul sofà imbottito giaceva il corpo di Talento Coraggioso. I servi l'avevano lavato e vestito, restituendogli decoro e dignità, e la luce delle candele guizzava sul tavolino accanto. Nessun artificio poteva nascondere la ferita alla testa, anche se il volto era pacato. Un soffio di vento dalla finestra aperta gli sollevò una ciocca di capelli bianchi che ricadde sulla fronte. 20 d'agosto si chinò per lisciargliela all'indietro. Com'è successo? Cosa faceva a Shanghai? La voce del soldato tremava. Per un attimo si aspettò che suo fratello gli rispondesse. 20 d'agosto si strinse nelle spalle. Non lo so. La zia è partita con nuovo destino e promessa costante per Shichao alcune settimane fa, prima che le cose si mettessero al peggio. La polizia ha portato il suo corpo davanti alla porta dicendo soltanto che gli avevano sparato. Ma chi? Ah, può essere stato chiunque. L'orologio nell'atrio cominciò a battere. Una, due, tre volte, contò Talento Nobile. L'ultimo rintocco rimase sospeso nell'aria. Erano le 9. A Shuichao lo sanno, sussurrò. 20 d'agosto scosse la testa. Avevo pensato di dirlo a loro di persona. Avevo pensato. Per favore, vuoi lasciarmi solo con mio fratello per un po'? Hai bisogno di qualcosa? L'altro fece cenno di no, togliendosi i guanti e la fondina della pistola, mettendoli con precauzione sulla scrivania, come se potessero esplodere. Allora porterò i servi con me all'ufficio. Ci sono alcune cose da sistemare. Talento Nobile annuì di nuovo, poi si inginocchiò. La serratura scattò. Ore dopo, sempre solo, il fratello più giovane prese dalla tasca del panciotto la lettera che aveva cominciato molte settimane prima, durante la campagna della marcia verso il nord nella provincia di Zhejiang. Non aveva avuto il tempo di finirla. Ora l'avrebbe consegnata di persona. Schiarendosi la voce, lesse: Caro fratello maggiore, sono a Hangzhou, circondato dalle mie ammirevoli truppe e dalla folla applaudente, ma mi sento solo e ho bisogno di parlarti. Ho sognato una marcia vittoriosa come questa da quando nostro padre mi mandò all'accademia. Ora che è diventata una realtà, so che il sogno mi soddisfaceva di più. In realtà abborro le masse che abbiamo liberato, la loro povertà di mente e di corpo, benché capisca che essi siano nati con questa malattia e non possano guarirne. In realtà la sporcizia, la vuota passività e le violente passioni di questi contadini mi ripugnano più di quanto osi confessare se non a te. Un bambino uscito da una casupola lungo la strada mi corre dietro pregandomi di farlo salire sul mio cavallo. Più lui grida, più io affondo gli speroni nei fianchi della bestia, dichiarandolo un elisir senza pari. Un contadino sdentato mi preme nella mano del pane imbevuto nel sangue di un assassino, prelevato all'istante della sua decapitazione. Lo mando via con un calcio. So che se non fosse stato per gente come questa, in questi 7 mesi non saremmo potuti avanzare. Ci nutrono, ci alloggiano e per noi fanno le spie, eppure quando devo mangiare con loro non ho più appetito. Ho i miei dubbi riguardo ai bolscevichi. Ci danno fucili e consigli, sempre consigli, ma sono stranieri, fratelli di sangue dei mercenari che combattono al fianco dei signori della guerra. Quando vedo uno di loro sparare a un cinese, mio nemico, io vorrei ucciderlo. Mi ritrovo a dubitare persino dei miei compagni nel Kuomintang. I quadri comunisti che marciano davanti all'esercito per preparare con slogan e comizi il nostro ingresso nella città. So che la nostra pronipote e suo marito sono fra di loro e ciò nonostante mi insospettiscono il loro fervore, i loro discorsi sui malvagi padroni che cadranno sotto le mani dei nobili contadini. Le mie simpatie vanno agli anziani che si fanno schierare coi cappelli d'asino nelle pubbliche piazze. È questo il senso della rivoluzione? Alzò gli occhi, aspettando la risposta che sapeva non sarebbe mai venuta. È questo il senso della rivoluzione? Ripeté. Allora, come te, non sono fatto per capirlo. Di nuovo il vento sollevò una ciocca di capelli al patriarca. Talento nobile si chinò per risciargliela, piangendo.